Comunque va bene. Questa come si chiama? Questa si chiama I Don't Mind. Questa è I Don't Mind. È l'ultimo pezzo, con questo chiuderemo questa splendida serata. Noi pensavamo di essere in quattro gruppi, però purtroppo facciamo quattro pezzi. Così siete tutti liberi di andare a casa, è finito tutto. Dimenticare tutto. Voi non ci avete mai visto. Comunque, se volete, su MySpace, la pagina Atomic Clocks, questo lo dico non per farmi pubblicità, però perché è anche giusto dirlo, è possibile scaricare il nostro disco, è gratuito, e ci fa piacere se l'ascoltate, poi magari ci lasciate qualche commento. Francesco al basso, Marco alla batteria, Pippo al sax e io alla voce. Grazie, grazie. Noi avremmo pure finito. Vuoi fare un bis? Allora, ragazzi, io sarò brevissimo. Passano la serata, quindi, con il premio alla giuria. Un applauso alla giuria che ha votato gli Atomic Clocks. Quindi passano la serata, secondo il premio alla giuria, di conseguenza... E l'altro gruppo, insomma, vince il premio del pubblico. Per quanto riguarda stasera, City, Ambasciata di Marte, Radio Rana è tutto. Ci vediamo il 10 di gennaio. Buonanotte. Se vuoi fare il bis adesso. Buonanotte.